È la volta di un altro spettacolo, l'unica cosa possibile, che sarà in scena dal 4 al 7 di gennaio al Teatro Studio 1 qui a Roma, a Torpignattara. Ne parliamo con Iris Basilicata. Intanto benvenuta al Radioteatro e auguri. Grazie, grazie, buon pomeriggio, auguri a tutti, buon anno. Buon anno. Allora Iris, parliamo un po', intanto raccontiamo di cosa si parla, cos'è questo spettacolo. Sì, allora questo spettacolo innanzitutto è una scrittura scenica. L'unica cosa possibile è un esperimento che abbiamo già messo in scena lo scorso anno, in cui siamo due attrici che interpretano tre personaggi e anche loro stesse, quindi sono cinque entità in tutto, in una vicenda sanguinosa che si andrà a raccontare nel corso delle scene. E siamo un gruppo di persone che lavora insieme da un po', io, Eleonora Guzmano, e la regia di Francesco Prudente e Giulia Leandri. Noi abbiamo fatto una scuola insieme, abbiamo studiato insieme. È un giallo, si può dire, una vicenda sanguinosa. A proposito, ecco, visto che si parla di una vicenda sanguinosa, la curiosità c'è, per cui ti chiedo come nasce lo spunto, da dove viene fuori quest'idea? Allora, sicuramente c'è un'urgenza di parlare dell'identità, cioè di come una persona possa rivedere la propria identità in un altro e di cosa può essere spinto a fare per salvare se stesso. Infatti l'unica cosa possibile è proprio il risultato della vicenda stessa, cioè l'unica cosa possibile da fare in una situazione di estremo pericolo. Ci sono due personaggi bohemien, e abbiamo deciso di raccontare la vicenda anche intrecciata a quella delle attrici, quindi sono in scena i due personaggi, ma anche i tre personaggi, ma anche le due attrici. Noi interpretiamo anche un personaggio maschile. Ok. Io e l'altra attrice, Eleonora. Senti, Eleonora Guzmano. Sì. Sì, sì, sì, no, dai, stai proseguendo. Sicuramente è stato uno spettacolo molto, molto forte. Abbiamo fatto diversi mesi di prove, siamo andati in scena lo scorso anno a Carrozzerie Notte, che è uno spazio appunto qui a Roma, e con, devo dire, anche un buon risultato, una buona risposta. E questo problema dell'identità di ognuno di noi è la cosa alla quale noi volevamo cercare di dare una risposta. Abbiamo interpretato sicuramente tre personaggi molto lontani da noi, perché si parla di dipendenza, di dipendenza non solo da sostanze, ma anche dalle persone stesse, e quindi è stato un bel esperimento. Siamo trovati bene a lavorare tra di noi e speriamo che arriverà molto pubblico. Bene. Insomma, siamo in scena tra un paio di giorni, quindi incrociamo le dita. Senti, ci lasci i vostri riferimenti internet? Sì, in realtà non avete ancora una pagina, un sito? No, non c'è un sito, però ci sono gli eventi Facebook che sono stati creati dall'ufficio stampa e anche dal Teatro Studio 1 stesso. Ok, benissimo. Allora, ripetiamo. L'unica cosa possibile, dal 4 al 7 di gennaio al Teatro Studio 1 a Torpignattara qui a Roma. Un abbraccio e un in bocca al lupo, Iris. Grazie. A presto, alla prossima. A presto. Ciao, ciao, ciao. Buon anno. Auguri. Ciao a tutti.